Dai, non ci sono state le previsioni del tempo, per cui vuol dire che resta bello, almeno speriamo. E quindi, tornando in diretta dopo il GR di Radio Popolare, avremo da subito la rubrica, come avrete intuito dalla sigla, in mostra. Andiamo a Ferrara, conosciamo un territorio particolare sul quale spendo due parole, perché è così variegato, nonostante lo stereotipo che la pianura sia tutto uguale, che continua a stupire. Siamo a Ostellato, uno dei territori nel delta del Po, le valli di Ostellato, lo stesso paesino in una caratteristica posizione geografica unica, aggiungo anche speciale, porta una varietà nel degradare verso il mare che ne dà, oltre che bellezza estetica, anche suggestione poetica, così diversa dalle zone più a nord che frequento, o più dal punto di vista naturalistico, come si può dire, lussureggianti, ecco, mentre invece la campagna ferrarese più austera, ma allo stesso modo con altro motivo di ispirazione, e a quanto pare anche l'artista Antonio Maria Nardi, nato ad Ostellato nel 1897, sicuramente ne ha avuto motivo di approfondimento. E per quanto riguarda la mostra che troviamo imminente a Castello Estense, è un altro dei percorsi riportati per dare attenzione ad artisti che non hanno avuto l'attenzione che meritano in un Novecento quanto mai fertile per l'espressione artistica anche nella città estense. La figura di Antonio Maria Nardi, che poi si trasferirà per motivi di studio, per motivo anche di incarichi artistici che conosceremo grazie alla voce di Pietro Di Natale, curatore o meglio co-curatore dell'esposizione, troveremo modo di darne un identikit e allo stesso modo di percorsi in mostra per conoscerne i lavori. Da grande spiritualità alcune opere, poi vedremo nel dettaglio dove si trovano, non troppo distanti dai territori che ho appena elencato, ma anche a livello universale riconosciuto. Illustratore, ecco un altro aspetto importante, oltre che nell'arte figurativa da cavalletto con importanza specifica per quanto riguarda un'interpretazione con una sua particolare originalità. Allora iniziamo il nostro viaggio verso Ferrara, ricordo che ufficialmente apre domani, quindi è un in mostra last minute, se vogliamo, possiamo chiamarlo in questo modo. Sarà abbinata un'altra esposizione invece di cui parleremo nella prossima puntata, ma non andiamo troppo avanti, soffermiamoci appunto su Antonio Maria Nardi, I colori della vita, apre domani 5 luglio, quindi siamo in contemporanea con la rubrica in mostra e sarà fino al 26 dicembre. Direi che con queste due puntate in mostra possiamo dare il via a una sottorubrica che sotto non è, ma è altrettanto importante, con Arte Ferrara Estate 2024, e quindi si parte con l'apertura che ci sarà a Castello Estense a proposito di un'esposizione dedicata ad Antonio Maria Nardi, I colori della vita. E ho il grande piacere di ritrovare Pietro Di Natale. Buongiorno Pietro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo facendo un identikit di questo artista. Allora, è una mostra molto interessante di riscoperta di un artista che ha avuto un triplo binario, per così dire, ovvero nato ad Ostellato allo scadere dell'Ottocento, è stato inizialmente dal 1915 al 1930 un grande illustratore, e poi dopo si è dedicato soprattutto alla pittura di tema sacro, con interventi incredibili, anche eclatanti per così dire, come a Bologna nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, con un ciclo quasi neogiottesco, e poi in Brasile quando decide nel 1949 di trasferirsi per 16 anni. E quindi diciamo che è un artista molto conosciuto per la sua attività di illustratore nella prima fase, e poi dopo ammirato soprattutto dai fedeli, senza quasi sapere appunto il suo nome, perché la sua è una pittura per così dire senza tempo, cioè un fautore dei valori della tradizione, in un classicismo puro e pieno di sentimento che si rifà ai grandi modelli del passato, però contestualmente, ed è questo che noi veniamo a rappresentare in questa mostra, coltiva per tutto il tempo della sua vita la pittura da cavalletto, confrontandosi con i generi tradizionali, dal ritratto alla natura morta al paesaggio. E quindi abbiamo riunito nelle sale del Castello Estense una bella selezione di dipinti da cavalletto dalla metà degli anni 10 fino più o meno agli ultimi anni, nel 72, quando gli viene dedicata una prima mostra. Quindi è quello che possiamo dire non conoscono chi se ne è occupato, ovvero né l'illustrazione né la pittura di soggetto sacro, praticata soprattutto in cicli decorativi molto molto ampi. Abbinato le note di Chris Bowden, compositore e contraltista, anche lui poco conosciuto ma secondo me carico di talento, anche lui con un triplo binario per quanto riguarda questo aspetto di classicità, con scritture di lunghe suite ma allo stesso tempo moderne, e per quanto riguarda l'immagine, l'aspetto figurativo, una nota ulteriore di attenzione alla sacralità, ecco, a questi brani che non sono così immediati nella loro narrazione, ma che danno una sorta di imponenza, di forza, di attenzione. Mi ricorda sia il territorio che la parte di espressione sacra di Antonio Maria Nardi, una colonna sonora secondo me che si abbina allo stesso modo un Chris Bowden nella sua bellezza, nella estetica, come potete ben sentire sotto la mia voce, la capacità in questo caso di legarsi alla tradizione, però unendo anche altri aspetti. Nella chiesa degli Alemanni, e per quanto riguarda la chiesa del Sacro Cuore, per la Basilica di San Francesco e anche la Basilica di Santa Maria dei Servi, lo troviamo più vicino a Ostellato, nella splendida Adria, nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, a Lendinara, a Stienta, qui siamo sempre nel territorio polesano, e poi motivi di studio anche oltre confine, come ad esempio a Lugano o nel suo viaggio, come abbiamo appena ascoltato da Pietro di Natale, in Brasile. E questi percorsi poi, che vengono sintetizzati dalla descrizione in apertura della mostra, ne fanno uscire un artista con ispirazione intensa che indubbiamente merita un'attenzione proprio per questa caratteristica. È un interprete speciale, chiamiamolo così, allora, se si può definire in sintesi la sua arte figurativa. Beh, sì, è una figurazione di carattere realistico che procede nel solco dei grandi maestri del passato. Abbiamo già qui ospitato un suo familiare, per così dire, un pittore ferrarese che come lui si definiva un sopravvissuto, ovvero Giovanni Battista Crema, che aveva passato indenne senza guardare le avanguardie e aveva percorso la strada di una dei valori tradizionali dell'arte in un tempo molto molto complesso e molto diversificato. E quindi Nardi, come abbiamo voluto dare questo titolo, I colori della vita, perché quello che dipinge è quello che passa sotto i suoi occhi, a partire da se stesso, con dei bellissimi autoritratti, una l'immagine guida della mostra del 1919, e i suoi familiari con i quali ha un rapporto molto molto intimo e quotidiano, e il paesaggio, la natura morta, e quindi insomma una, per così dire, come la chiamava il grande Raffaele De Grada nella sua mostra di riscoperta alla Galleria Ponte Rosso, una riproposta che comunque ha una posizione importante nella storia della pittura del Novecento. Quanti artisti hanno dato un grande contributo, e non solo per la città, ma proprio per un'interpretazione speciale di un'epoca. Allora Pietro, io ti ringrazio tantissimo per questa sintesi che abbiamo fatto dell'esposizione In apertura contemporanea con la rubrica In mostra di questa settimana, e ci vediamo a Castello Estense. Assolutamente, e voglio ricordare a tutti i tuoi ascoltatori che la mostra in realtà è una doppia mostra, perché abbiamo nei camerini la mostra di Antonio Maria Nardi, ma la prima parte delle sale del piano nobile ospitano una seconda mostra, quindi è una doppia mostra, di un pittore vivente molto famoso, protagonista, diciamo uno dei più noti della figurazione a livello europeo, Maurizio Bottone. Infatti ti invito poi a parlare anche di questo magari in una prossima volta, una mostra che si chiama Maurizio Bottone, Eterna Pittura. Quindi saranno i visitatori del castello, da qui alla fine dell'anno vedranno ben due mostre in questi straordinari spazi. Bene, quindi dovrai mantenere la promessa per la puntata successiva, Assolutamente sì, perché tra l'altro le mostre dialogano molto bene e hanno, per così dire, una continuità. Assolutamente, sono qui a disposizione. Grazie della tua disponibilità e per dar motivo di fare uno speciale Ferrara Estate 2024 in mostra. Meraviglioso, William, ti ringrazio molto. Le composizioni di Chris Bowden qui con la voce di Lizzie Parks hanno le caratteristiche un po' che abbiamo ascoltato a proposito dell'artista Antonio Maria Nardi, in un triplo binario dal figurativo alla tradizione all'illustrazione, una presenza di una sacralità, di una spiritualità che mantiene costante il livello di questa attenzione ed estetica artistica in maniera importante. Quindi avremo modo, come vi ho anticipato, di tornare per un'esposizione collegata a quella che abbiamo sintetizzato nella partenza della rubrica In mostra odierna, oggi giovedì 4 luglio, per la prossima puntata, e dare il via a questo piccolo speciale Ferrara Arte Estate 2024. Grazie a Pietro Di Natale, co-curatore dell'esposizione Antonio Maria Nardi al Castello Estense, e una mostra che porta, oltre che la qualità, una specificità di riscoperta, appunto, che come sempre ho sostenuto non è da trascurare, anzi tutt'altro. Conclusa è la prima parte della rubrica in mostra, un po' di notte di Chris Bowden con la voce di Liz Parks per Ninja Tune, e poi torniamo a breve con la seconda parte dedicata a Marco Polo, il mercante viaggiatore della Serenissima Principessa dell'Adriatico a 700 anni dalla sua scomparsa. Ovviamente anche in questo caso avremo una colonna sonora a tema. A tra poco, buon ascolto!